I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dedicato alle mie simili, indomite e resistenti nei secoli e oggi. Voi siete la forza, la civiltà e la sapienza della specie. Non dibattetevi tra le bestie, dissociatevi e forse si educheranno la vostra sapienza. Non più compiacenti alla bestia, ora è il tempo di essere fiere. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa apertura che abbiamo appena letto, che abbiamo appena fatto, è tratta dall'ultimo libro di Daniela Pellegrini, Liberiamoci della bestia, ovvero di una cultura del cazzo. È di questo marzo, è fresco fresco di stampa, di questo marzo 2016, è il suo ultimo libro. E ci fa moltissimo, molto molto piacere presentarlo, perché Daniela è una femminista che ha un lungo percorso di lotta ed un percorso importante, e ha detto nel tempo e ha ancora tantissime cose da dire alle femministe e alle donne tutte. Lei ha fondato nel 1965 a Milano il primo gruppo italiano di donne, si chiamava da capo Donne contro autoritarismo patriarcale, oppure anche Donne a capo. Poi il nome è stato modificato in seguito in DEMAU, Demistificazione autoritarismo patriarcale. Lei vive a Milano ed è stata animatrice del Circolo Culturale Politico delle Donne CICIP e CICIAP insieme a Nadia Riva. L'hanno fondato nel 1981, quindi avete idea, insomma, di cosa vuol dire un percorso dal 65 ad oggi, passando attraverso diverse tappe. Infatti con Nadia Riva ha anche fatto, gestito, finanziato la rivista Fluttuaria, Segni di autonomia nell'esperienza delle donne. Sono stati pubblicati di questa rivista 17 numeri tra l'87 e il 94, e in questi numeri ci sono moltissimi articoli di Daniela Pellegrini, molti suoi scritti. Poi ha pubblicato un libro, Una donna di troppo, storia di una vita politica singolare. Questo libro praticamente è del 2012, è stato pubblicato dalla Fondazione Badaracco, editore Franco Angeli, ed è un libro molto importante perché è biografia, storia di un percorso politico, storia di un intero momento di lotta delle donne, un momento che ha attraversato tanti anni e che è stato fondante fondante del femminismo. Noi nel 2012 con lei abbiamo fatto, insieme a lei e a tante altre compagne, un incontro nazionale separato che era chiamato, si intitolava Memoria collettiva, memoria femminista. L'avevamo chiamato come coordinamento femminista e lesbica, ma era chiaramente un incontro che è stato frutto della collaborazione e della partecipazione di tantissimi gruppi di compagni, fra cui anche Daniela. E Daniela in quell'occasione ci ha presentato infatti il suo ultimo libro, quella volta il suo libro Una donna di troppo. E tanto per darvi un'idea di quello che già in quel momento è stato il suo portato all'interno di quel discorso memoria collettiva, memoria femminista, che voleva essere un recuperare e un leggere in chiave femminista una memoria che c'era stata sottratta, che era stata smontata, svilita, resa innocua, se vogliamo usare un termine buono. Noi abbiamo ritenuto molto importante recuperare la memoria femminista, e in quel contesto infatti l'esperienza di Daniela è stata importante ed è tuttora importante. Per esempio, vi leggo un pezzettino del suo intervento in quel contesto, che fa parte sempre del libro Una donna di troppo, in cui lei dice: nel momento stesso in cui sono venuta al mondo della mia coscienza, il mio corpo sessuato era lì da vedere. La materialità dei suoi vissuti dentro questo mondo era inscindibile sostanza dei miei pensieri e dava voce ai miei desideri. Primo tra tutti quelli di esprimerlo ed esprimermi al massimo del suo valore e della sua creatività. Non ho mai avuto dubbi sulla genialità insita nell'essere donna, bastava dimostrarlo una volta per tutte in quella volgare storia di uomini che l'aveva cancellata ed esclusa. Feci di questa esclusione subita per secoli la mia forza e la mia superbia per esprimere estraneità ed affermare che il mio desiderio era altrove. Ora, appunto, nel marzo di quest'anno è uscito il nuovo libro di Daniela, Liberiamoci dalla bestia. A questo punto l'abbiamo cercata e le abbiamo detto se le faceva piacere parlare con noi. Infatti adesso ci collegheremo con lei in diretta e parleremo proprio di Liberiamoci dalla bestia. Can you guys hear the good? Can you guys hear the good? Pronto? Sì. Eccoci. Allora, ciao Daniela, siamo in linea con ciao, Daniela Pellegrini. Ti abbiamo presentato alle ascoltatrici e agli ascoltatori il tuo libro e abbiamo detto anche, più o meno per quanto possibile in pochi minuti, qual è il tuo importante percorso femminista e quello che hai fatto e quello che hai fatto per le donne in questi anni, addirittura dal 65. E quindi adesso invece, dato che hai pubblicato quest'ultimo libro, Liberiamoci della bestia, ovvero di una cultura del cazzo, vorremmo presentarlo, vorremmo parlarne con te perché a noi è piaciuto molto. E quindi diciamo che in linea di massima potremmo partire da una prima sensazione che abbiamo avuto noi, così poi tu ci dirai se è vera o non è vera, no? Cioè, la prima sensazione che abbiamo avuto leggendo il tuo libro, quindi a cominciare proprio dal titolo, no? Liberiamoci della bestia, esatto, è che tu abbia sentito e senta un prepotente bisogno di dire la verità, cioè di dire le cose come stanno. Quindi questa sensazione che abbiamo percepito è vera, e comunque da cosa nasce l'idea di questo libro? Dunque, è vero, avete avuto una percezione esatta, nel senso che ero come un po' a disagio nel vedere che in fondo non si parlava più in concreto, ma solo si teorizzava in qualche modo il come uscire dalla questione. Cioè, il patriarcato molto si è detto che era morto, mentre secondo me non lo è affatto, anzi. Allora, per me l'esigenza di scrivere questo libro mi è venuto dal desiderio di riuscire a descrivere chiaramente e molto in concreto cosa comporta essere dentro questa cultura e vederne i soggetti e i risultati concreti che questa cultura mette in atto, anzi il suo simbolico, grazie al simbolico di riferimento, che è invasivo a tutti i livelli di senso, e scoprire le sue ragioni e i suoi scopi e i modi della sua egemonia. E avrei voluto provato a dirlo guardando, tenendomene fuori, per aprire il discorso, un percorso che potesse dare chiarezza, anche certo. Perché l'altra ragione per cui ho voluto scrivere questo libro, perché mi sembrava il momento giusto per farlo, perché mi è saltato agli occhi di tutta l'attuale dispersione delle forze delle donne in mille rivoli che loro stesse definiscono al plurale, cioè femminismi, sì, che si autocelebrano troppo spesso molte conflittuali e cavillose incomprensioni che non possono che essere da freno e incapacità di incidere in qualsiasi cosa lo faccia e tu faccia, poiché certo. Anche se ogni motivazione è egregia, ogni azione messa in atto si regge solo su se stessa, senza creare alternativa complessiva determinante, senza affermazione di un altrove possibile e propositivo. Certo. Ecco, perché poi ci si riferisce a varie culture, tradizioni, eccetera, come se nella frammentarietà si diesse scusanti di chi è più bravo o meno bravo a interpretare il patriarcato, no? Certo, sì. Mentre sì, c'è anche secondo questo. Me è solo una lettura a posteriori dei guasti che produce in qualsiasi luogo e tempo, ecco. Per cioè. Cui in fondo questa qui è stata la motivazione. Ce n'è anche un'altra forse, perché ultimamente le cose si sono complicate molto rispetto al percorso del femminismo e dell'attuale, come dire, presa in carico anche di idee che il femminismo ha diffuso e che si sono poi tramutate in qualche modo in un quello che alcune hanno chiamato neoliberismo. Certo. Ecco. Quello in cui siamo infilate, insomma. Ecco. Sì, perché con la teoria della differenza che ha valorizzato giustamente, io ho sventolato per anni questa bandiera, era valorizzare ciò che le donne sono e hanno rappresentato storicamente, anche se hanno agito volente o nolente dentro e a favore di una presa di potere del maschile, E per cui questa teoria è stata sostegno e giustificazione di molte prese di posizione delle donne, e hanno determinato, secondo me, per tutti, non solo per le donne, tra parentesi forse anche i trans, i queer e tutte queste nuove, nuovi soggetti, la possibilità di contestare le identità e i rapporti di potere imposti. Però questa teoria, che è accettata come unica autorevole ultimamente, non ultimamente ma da molto ormai, secondo me non apre una vera modificazione, anzi la pretende dentro la dualità. Certo, infatti questo è il problema, che a noi sembra che ribadisca effettivamente quella dualità di cui tu parli, e la ribadisca anche, cioè, e la fortifichi, non so come dire. Sì, infatti poi la rende quasi una proprietà privata e giù le mani, cioè non è che è un risepararsi, no, dall'altro, pur chiedendogli un riconoscimento. E questa, ecco, cosa del riconoscimento però è molto pericolosa, perché il chiedere un riconoscimento ci sembra che poi sia anche adeguarsi, ma comunque addirittura volere entrare in un mondo che invece ci ha buttate fuori per da sempre, o ci ha usate. No, ma soprattutto secondo me è voler dire accettare l'altra differenza. Come tu mi accetti, io devo accettarti così come tu sei, cioè quel maschile lì e questo femminile qui, di questa cultura complessiva, in qualche modo mi corrisponde. In certo, più, dentro in vero, una situazione che ricalca l'idea fondamentalista di queste figure, no? Certo. Ed è per quello che io ho da anni messo in discussione questa cosa e ci ho studiato, come si dice. Sì, perché... no. Infatti è una, nonostante per esempio noi partiamo da un presupposto diverso, nel senso, ma di fatto arriva alle stesse conclusioni, per cui il problema della costruzione dei ruoli e il problema della costruzione sociale di quello che siamo è fondante come punto di partenza, no? E anche come modalità per scardinarli, perché scardinare i ruoli per noi è stato, come coordinamento, è stato un percorso che abbiamo cercato sempre di fare, di tenere presente, cioè lo riteniamo fondante del percorso di liberazione. Quindi lo scardinamento dei ruoli noi l'abbiamo vissuto in un modo, cerchiamo di vedere in un modo, però poi abbiamo visto che l'obiettivo è lo stesso, ecco. Sì, solo che appunto adesso, tornando alla questione del neoliberismo, sì, c'è il rischio, perché cioè per molte, dopo l'elaborazione della teoria della differenza, c'è chi teme che il superamento delle differenze, che ormai è sulla bocca di tutti, io mi stupisco perché, certo, finalmente per me ci lasci in qualche modo soltanto il neutro maschile, come se non fosse sempre stato quello il valore a cui ci si riferiva, il maschile universale, certo, di essere, no? E adesso io mi chiedo se si teme di più il neutro o il maschile, come se uscire da queste due differenze ne cancellasse una sola, certo, cioè quella femminile, certo. Però il rischio io vedo che c'è, perché c'è una contraddizione tra una vera libertà delle differenze, che e non solo per le donne, tra libertà e uguaglianza parità, perché appunto anche tutte queste differenze che chiedono uguaglianza parità, non solo per quanto riguarda un certo filone del femminismo, no? Certo. A proposito dei femminismi figurali, viene in qualche modo questa, viene stavolta è resa oscura da quello che molte chiamano appunto il liberismo, il neoliberismo, perché mimetizza, ma riafferma la dualità sotto apparentemente nuove spoglie. Ma anzi, il neoliberismo è andato anche oltre, nel senso che le usa proprio, cioè usa questo tipo di diciamo configurazione per presentarsi come quello che tutela le soggettività, quello che tutela i nuovi desideri, quello che tutela le varie differenze, chiamiamole sessuali, le varie differenze in tutti i campi. Il neoliberismo usa questo, lo fa anche con l'antirazzismo, per esempio, usa l'antirazzismo per portare avanti delle politiche razziste, difatti, e di fatto, e in effetti anche col sessismo, chiamiamolo così, porta avanti delle politiche antisessiste, quindi contro tutta una serie di differenze, però in effetti per continuare un'oppressione di queste differenze, paradossale. Sì, infatti, però appunto si può dire che il neoliberismo è una delle tante facce evolutive del patriarcato, certo, perché si basa in qualche modo sulla libertà di fare qualsiasi cosa, di pretendere di agire, appunto l'abuso, io lo chiamo l'abuso. No, è entrambe l'abuso. Entrambe le differenze, cioè tutti quanti possono fare quello che per me, nella mia chiave di lettura un po' volgarotta, no, è molto pratica. E infatti nel mio libro, avendolo tu letto, avrei visto che io come dire, rendo materiale una metodologia, diciamo, basata su quel proprio volgarmente parlando organo. Certo, no, infatti sottotitolo ovvero di una cultura del cazzo è quanto mai azzeccato, perché ecco, è così, cioè è un dato di fatto. Allora adesso tutti stiamo diventando entrando nella possibilità di avercelo, perfino le donne. E infatti questa, a proposito, la lecità di ogni qualsiasi cosa tu voglia fare la puoi fare, per via, poi ti pigliano anche per il culo, almeno, certo, le donne, come, e quelli no, che sono davvero differenti sono, non è che ci arrivino, però appunto anche appunto avere potere, possedere, cioè tutte terminologie legate a quell'elemento biologico, diciamo. Certo. Ecco, allora appunto, tra l'altro non hai idea di quante si sono scandalizzate di questo titolo. Di questo titolo, beh, è un titolo che è un dato di fatto, quindi no. Scandalizzarsi della verità è, non è. Sì. Ma sai quanto ci ho pensato a che come poterlo cambiare, ma non c'era verso. Un altro modo quella di dirlo. È la chiave. Ecco, poi rispetto al voler prendere il potere, vabbè, nel mio libro ne parlo, ne disquisisco rispetto a questa cosa del gestire la vita e la morte, che nel corpo della donna sembra un presente, no? Certo. Mentre il maschio non ne ha mai avuto, come dire, la certezza. No. Infatti ha dovuto mettere il suo marchio di fabbrica sui figli, no? Certo. Chiudendo a chiave. Certo. Le donne non facendole far altro, cioè infatti io parlo anche nel libro alla faccia dell'invidia del pene, no? Esatto. Senti, detto freudiano. Sì. Senti, vorrei chiederti una cosa importante, perché penso, cioè quando abbiamo letto il libro abbiamo detto, vogliamo chiedere subito a Daniela che cos'è secondo lei la sindrome di Stoccolma, perché tu la nomini proprio in questo tipo di rapporto, sì, delle donne che hai nominato, eccetera, e quindi che cosa significa nelle donne? Sì, nel senso che nel mio libro c'è anche una nota rispetto alla sindrome di Stoccolma, che è un termine coniato da un tipo che ha fatto uno studio che dimostra l'alleanza che si forma tra vittima e carnefice, la chiama proprio così. che si manifesta quando ci si trova di fronte a una minaccia per la propria sopravvivenza, quando chi minaccia ci fa oggetto di gentilezze, di riconoscimenti, di falsi amori, o quando non si percepiscono prospettive diverse da quelle imposte dall'aggressore, né si vede la possibilità di via di fuga. Voglio dire, le donne hanno vissuto così da secoli, ma vivono ancora comunque così, e la violenza di queste repressioni, i divieti, è tutto, no? Cioè è proprio la posizione dello schiavo rispetto al padrone, per usare una terminologia più marxista, diciamo. Certo, così, no? È la sottomissione, complicità e contemporaneamente accettazione. Certo. Cioè, ti azzeri. Ecco, allora per poter esistere, oltretutto vai a finire anche che sei costretta ad amarli. Certo. Mi ricorda, questo mi ricorda un film, adesso mi sfugge il titolo, ma cioè era un film comico di fatto, e parlava della Russia zarista, e uno dei servi a casa del signore dice: no, è un padrone buono, mi frusta soltanto la domenica. E questo sono quello che continuano a dire le donne, sì sì. Sì. No, ancora adesso, perché poi una delle cose che ci ha colpito moltissimo, che ancora persiste questo rapporto delle donne nei confronti dell'uomo, di sottomissione volontaria e affettiva, ma fortissima, per cui a parte il fatto che questo poi apre la strada alla sopportazione di qualsiasi violenza, per questo c'è ci sembra abbastanza importante ribadirlo, perché non è venuto meno nella maniera più assoluta. Infatti, anche se i rapporti si sono spostati, no? Sono diventati più moderni, fra virgolette, questo rapporto di sottomissione io lo vedo anche nelle giovani generazioni, quando le ragazze si pongono sempre, cioè non tutte chiaramente, c'è per fortuna chi cerca di, quelle che cercano di prendere coscienza, eccetera eccetera, poi alla fine. Pronto? I never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. I'll be dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming. Dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming. I'll be dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming. I'll be dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming. Ecco, è caduta la linea e siamo tornati in diretta. Quindi riprendiamo un attimo il filo e stavamo parlando, mi pare, della sindrome di Stoccolma, vero? Sì, sì, sì. Ma questo è andato, no? Sì, questo è andato. Sì. No, no, appunto, rispetto appunto all'umiliazione in fondo culturale che le donne sentono, come se in questa cultura loro non hanno costruito nulla, capito? Certo. E allora si riferiscono ai creatori. Certo, sì, fanno sempre riferimento a questa appunto sudditanza anche intellettuale di elaborazione, e anche una metodologia in fondo culturale di elaborazione del pensiero che va a discapito della realtà e della materia, no? Perché poi sono le donne che hanno rappresentato sempre la materia. Ecco, io infatti invece che differenza vorrei definirla materia pensante. Ma è vero questa. Anche quella dualità lì a me mi pesa. Certo, ecco. No, hai ragione, in effetti è una cosa che non ha fondamento, non dovrebbe avere fondamento. Ma... solo che nella divisione basata poi su un biologico di stravagante, perché poi appunto la lettura del biologico dove la differenza esiste, perché c'è genitalmente, chiaro che c'è la differenza, certo, no? Però, però gli ormoni non agiscono uguali per tutti, come sappiamo bene, no? Certo. Solo che il maschio, diciamo, l'ha tramutato per le donne in un dover essere biologico. Infatti, senti, posso leggerti questo pezzetto che abbiamo preso dal tuo libro che ci era piaciuto tantissimo, proprio su questa problematica? Guarda, tu dici: per prima cosa bisognerebbe scoprire la veridicità dell'esistenza a priori di ogni dualismo in ogni possibile contesto umano e in ogni individuo sessuato, sia esso maschio o femmina, e anche quando non lo potessimo appurare, e dato che tale dualismo oggi ci appartiene, dovremmo studiarlo e tentare di praticarne il superamento. Ho la presunzione che il come sia il compito storico delle donne. Quindi tu parli di questo luogo terzo, no? Come lo chiami tu? Sì, e ti dirò che quella frase lì, che poi appunto la mia, quella che ha fatto l'editing, ha voluto metterla sul retro di copertina. Sulla quarta, sì. È una frase che io del 1961. Ah, pensa un po', ecco, tanto da dove era partita. Però va detto, cioè, facendo una premessa, perché io sono partita dall'antropologia, è sempre stata la mia fonte di indagine quella di andare a vedere le varie culture umane, anche se poi adesso sono state quasi tutte cancellate. Certo, sì, è vero. Ed è stata una fonte grande di elaborazione, perché fin da quegli anni lì io avevo letto un'evidente e conclamata relatività dei risultati che culture diverse mettevano in scena. Certo. O in una scelta o una lettura che testimoniavano tutte le coincidenze, tutta la coincidenza tra i dati identitari, strutturali, sociali, cioè che materialità e significazione andavano in questa scelta e lettura specifica, perché c'erano culture meti che si potrebbero definire tutti maschili, nel senso che tutti erano violenti, ammazzavano, donne e uomini compresi. Certo. I bambini dovevano correre dietro le mamme per potersi far allattare, mangiavano quasi subito e smettevano di, vabbè, insomma, sì, tutte queste relatività, no? Che certo, nelle culture in cui forme delle identità e basate sì su una materialità che però interpreti e leggi, certo, in più ci mettiamo dentro la questione della presa del potere, poi, perché la differenza è un processo, non è una cosa già data, no? Certo, soprattutto sicuramente in una cultura. Certo. È un processo, ti vuol dire un differire, cioè diventare differenti, ma anche allontanarsi, no? Cioè questi due. Certo. Due. Per cui il separarsi e l'allontanarsi diventa contestualmente una creazione di disparità. Dove appunto qualcuno vuole attribuirsi il valore e vuole definire cos'è il valore e imporlo. Certo. Per noi è andata così. Per noi è andata così proprio. Sì, proprio. Globalizzato, perché. Ma questo non soltanto a livello evidentemente personale, No, ma no. È su tutti i modi di agire, no? Questo potere simbolico a tutti i livelli e in tutte le questioni, nelle relazioni, nella procreazione, nell'economia. Insomma, adesso più che truffe, abusi, vilcità sessuali di ogni tipo non c'è, ecco. Allora se avessimo potuto fare una scelta in base biologica rispetto al maschio, io ho sempre detto che siccome sono più muscolosi dovrebbero fare esclusivamente lavori di fatica e siccome sono inseminatori pericolosamente seriali, perché ogni momento è buono, e senza senso del limite e senza senso di responsabilità, è chiaro che bisogna tenerli sotto rigido controllo. Cioè, se io avessi preso potere come hanno fatto loro, avrei detto questo. Avresti detto questo. O no? Sì, senti. A questo punto della situazione, credi ancora, cioè al punto in cui sono le donne, come le donne sono venute fuori da un certo tipo di percorso, diciamo dagli anni 60 in poi, e di come hanno usato il rapporto con il maschile? Cioè noi abbiamo la sensazione che la ricerca di avere visibilità e di essere riconosciute le abbia portate di fatto, non tutte chiaramente, ma moltissime, a vendersi al maschile. Allora, scusa, a vendersi al maschile. Ti sento un po' lontana? Sì. Adesso mi senti? Sì, adesso sì. Ho detto, ha portato molte donne adesso questa situazione a vendersi al maschile di fatto, no? Nella ricerca di credibilità, riconoscimento e compagnia bella. Quindi sì. Tu credi ancora per esempio nella sorellanza? Cosa pensi delle donne di potere che sono praticamente partecipi dell'oppressione di tutte le altre donne di fatto? Sì, io non la chiamo più sorellanza perché io credo che quello che ci può unire è una pratica politica comune che miri al cambiamento anche individuale, perché poi nel movimento delle donne quello che poi ha messo anche un po' in disagio tutte è il fatto di scoprire, e io per prima ho scoperto che esisteva la diversità frequentando le donne, non gli uomini. Sì, sono convinta, cioè, sono d'accordo. Infatti, e poi le donne invece si aspettavano con grandi delusioni un'accettazione totale, no? Certo. Simbiosi, la sorellanza in questo senso, no? Certo. Ecco, e per cui appunto io credo che bisognerebbe rendersi consapevoli dentro appunto nelle nostre differenze che dovremmo appunto lavorare su questo per fare più chiarezza, ecco, credo in un lavoro di chiarezza e di chiarificazione. Sì. Che forse avrai capito, tendo a riproporre la pratica dell'autocoscienza, che secondo me infatti non deve mai finire, mai. Infatti, anche perché tu fai delle cose se sei consapevole di quello che fai. Certo. Allora, ecco, naturalmente puoi anche sperimentare, perché se no sei fermo per secoli, dopo 2000 anni vuoi sapere già cosa puoi fare di giusto. Certo. No, è un po' veloce, ecco. Però sperimenti, dati i tuoi percorsi, e infatti l'accettazione delle diversità dei percorsi e delle sperimentazioni che deve venire fuori dalle donne, e non la pura sorellanza, capito? No, sono d'accordissimo su questo. Perché se nel frattempo ti interroghi continuamente, passo per passo, nelle tue sperimentazioni, dove e cerchi di fare chiarezza, insomma, anche su tutte queste cose che in qualche modo ci siamo anche dette in questo colloquio, che non voglio dichiarare di finire l'intervista perché no. È in agitazione. Eccolo. Senti, volevo leggere un attimo, sempre dal tuo libro, le domande che tu ti fai e ci fai, fai anche a chi legge, alla fine che dici? Che cos'è? Dovremmo iniziare a porci domande a partire da che cos'è differenza e che cosa fa la differenza? Il separatismo ci libera realmente dalla seduzione del maschile? L'autocoscienza è ancora una pratica trasformativa? Quanti paradigmi possiamo immaginare fuori dal dualismo obbligatorio? Come uscire dalla competizione procreativa e dal mito della maternità? E poi allora, tu lasci degli appunti di riflessione. Sì, sì, sì, quelli miei personali. Sì. E lo dico perché queste cinque domande sono un risultato di un'elaborazione collettiva. Ah, rispetto ad alcune fanciulle, certo, in parte nel mio gruppo di autocoscienza, in parte altre, insomma, non tantissime, non siamo tantissime, che ci siamo messe lì dicendo, siccome poi vorrei, cioè la mia intenzione è quella di aprire una discussione per raggiungere appunto un risultato di chiarezze su queste questioni. Certo. E, per cui l'invito era di cominciare a farlo, per cui in queste domande tu vedrai che non è che ci sono già le mie di risposte. No, certo. Ecco. Sono... Per cui sono domande per iniziare, diciamo, a sondare la questione. Sì, tanto è vero. E la mia risposta è quella mia. Certo. E il libro la dice. Io poi do dei contributi per iniziare questa cosa di... della questione dell'alterità, no? Unica, indissolubile, la perfezione, l'incontro. Certo. Cioè, fin quando le donne non hanno lo stesso valore degli uomini e la dualità è così, quando mai una donna potrebbe vedere in un'altra donna un valore altrettanto di quello che dà un maschio? È già squilibrato in partenza. Devo andare là a trovarla, capito? Certo, è squilibrato in partenza. Ecco, per esempio, ecco, poi vabbè, il separatismo anche è una delle mie manie. No, ce l'abbiamo anche noi. Voglio discutere, non voglio darle per scontate e basta, capito? Certo, però noi riteniamo talmente importante, per esempio, la pratica del separatismo, o comunque parlare del separatismo e poi anche di autocoscienza, che vorremmo chiederti se fra un po', quando ti va, hai voglia di fare un altro intervento qui da noi e di proprio discutere in particolare sul separatismo e sull'autocoscienza, anche perché appunto sappiamo che stai facendo questo percorso con un gruppo di donne, di ragazze. Sì, qui a Milano avevo cercato di fare anche abbiamo fatto due convegni anche a Bologna e vicino a Bologna. Io ho cercato, insomma, di nazionalizzarlo, proposta, ma non è andata molto a buon fine, anche se so che esistono qua e là alcuni gruppi che continuano anche a fare in piccoli sessioni, insomma, anche un po' di autocoscienza. Poi io non lo so come la facciano, perché vabbè, ne parleremo in un altro momento, perché l'autocoscienza di quel tempi là è diversa da quella che si può fare oggi. Però se facciamo questa discussione in merito ne potremo parlare. Ecco, no, a noi farebbe molto piacere, perché riteniamo che siano due modalità, sia il separatismo che l'autocoscienza, che sono state un po' demonizzate, perché sono state lette in maniera distorta, e che invece siano fondanti. Almeno noi siamo separatiste, quindi noi riteniamo che sia una pratica importantissima nell'agire femminista, però vorremmo confrontarci con te, confrontarci anche con altre compagne che possono sentire la trasmissione, perché intendiamo appunto riaprire questa discussione e riaprire qualsiasi tipo anche di o critica o perplessità, eccetera. Però secondo noi è importantissimo riparlarne. Ecco. Sì, ecco, sono contenta. Quindi senti, ti ringraziamo tantissimo di questo intervento. Abbiamo già finito, non abbiamo parlato del luogo terzo, ma no, allora parliamo del luogo terzo. Sono scaduta. No, è vero, no, anzi, finiamo con il luogo terzo, perché è una risposta. Sì, perché appunto, vabbè, nelle cose appunto che la gente che appunto per uscire, io ho trovato questa terminologia che non è fondamentale, ma comunque il luogo terzo rappresenta quel luogo dove comunque non avere fretta di tutto quello che non avere fretta e ci fa piacere finire come si deve. Dai. Allora sai cosa faccio? Sì. Non cioè, insomma, in effetti adesso mi metto fretta. Allora, da tutte queste considerazioni sono arrivata a dire che si potrebbe potrebbe prendere il via questo luogo terzo. Certo. Libero dai dualismi fondamentalisti. Certo. E questo luogo terzo, e in questo luogo terzo ogni singola parzialità dell'umano, cioè ogni soggetto, sì, ha spazio ed accoglienza. Cioè ogni libera singolarità è consapevole dei propri limiti, dentro questo relativo plurale, perché è vero, non è che la differenza, diciamo, genitale sparisce, però è una differenza relativa. Certo. Perché agita singolarmente in quel modo, però anche l'accettazione della parzialità è importante. Perché intanto secondo me la parzialità sa gestire la dipendenza propria e quella altrui, e ne fa anche la propria forza nel dare e nel ricevere, no? Certo. Per cui si sostituisce l'affermazione di potere individuale con la valorizzazione delle infinite e al contempo specifiche singolarità. Per cui questo relativo plurale è il luogo aperto, disponibile alle varietà degli incontri e all'accoglienza. Certo. Perché io penso che è solo nella parzialità e nella modestia del proprio limite che si conosce e si costruisce la grandiosità del proprio esistere. Sono cosa faccio, un proclama adesso? No, ma è così, è la verità. Cioè parzialità e singolarità a tutto tondo, tutto ciò che ho lo faccio al meglio. Certo. Capito? Ognuno la sua di parzialità e singolarità, e siccome riconosce il proprio limite, la propria parzialità rispetto a tutti gli altri, riconosce anche la parzialità e la singolarità degli altri. Per cui, cioè, ecco, insomma, è un modo di dire che questo è un luogo dell'accoglienza. Certo. E degli incontri, poi tutto ciò da cui poi dovrebbe derivare una modalità diversa, no? Di rapporto, di considerazione, perché poi il potere non dovrebbe più esistere, no? Non dovrebbe. Anche se poi questo è un po' è tutto da dire, perché poi Uno solo adesso, almeno nella mia testa. Uno fa percorsi di imposta percorsi di liberazione, poi non è che ha la palla di vetro, no, di cristallo, che sa in effetti dare le risposte, però cerca di impostare i percorsi di liberazione, e quindi sì. Questo come niente, spero di averlo detto. L'ho detto un po' insulto, perché, ma sei capito secondo te? No, sei capito benissimo. E spero che anche tutte quelle che stanno ascoltando abbiano potuto capire e seguire. No, no, sei stata chiarissima. E noi infatti, al di là che ti ringraziamo tantissimo di questo intervento che a noi ha fatto molto piacere, però riteniamo che sia molto importante il tipo di discorso che ha impostato. E infatti, così lo anticipiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori, noi come coordinamento a giugno presenteremo il tuo libro e quindi avremo modo di fare e di farci e di sciogliere tantissimi nodi che sono impostati che sono impostati in quello che hai scritto e che sono comunque illuminanti e che aiutano tantissimo nell'analisi del presente. Quindi noi ti ringraziamo. Guarda, tantissimo. Contenta, ti ringrazio io perché mi hai dato ascolto e sostegno in tutto. No, sicuramente non soltanto io. Continuare. Certo, quindi appunto anticipiamo che ci vedremo con te a giugno. Ti ringraziamo tantissimo, un abbraccio da tutte e per tutte quelle che poi vorranno risentire il nostro colloquio e la trasmissione, noi faremo il podcast, lo caricheremo sul blog e lo manderemo, quindi ecco, tutte avranno come raggiungerlo. Va bene, grazie tantissime, grazie Daniela, da tutte noi. Buon lavoro. Grazie, ciao. Ciao. Dopo il colloquio con Daniela siamo qua di nuovo in diretta per chiudere la trasmissione con due comunicazioni per noi molto importanti. Allora, due comunicazioni che riguardano due manifestazioni di sabato 7 maggio, questo sabato prossimo che viene. Una è la manifestazione nazionale contro il TTP e l'altra è la manifestazione al Brennero per abbattere le frontiere. In particolare, la manifestazione nazionale del 7 maggio, di sabato 7 maggio contro il TTP sarà a Piazza della Repubblica alle ore 15. Noi come coordinamento femminista e lesbica ci saremo, lo riteniamo un appuntamento importantissimo e vi leggiamo il documento che abbiamo fatto in proposito. L'abbiamo intitolato Ultima spiaggia. Il TTP, partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti, è presentato come un trattato di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea e quindi come un insieme di accordi di tipo economico-commerciale. È stato portato avanti in segreto per diverso tempo e qualcosa è trapelato solo per caso e per via traverse, ma abbastanza per mettere in allarme immediatamente tutte le persone, prima ancora che politicizzate, anche solo dotate di buon senso. Ultimamente la sola Germania ha dato l'accessibilità ai documenti delle trattative ai suoi deputati. Uno scambio libero si presuppone che venga fatto fra soggetti alla pari, ma Stati Uniti e Europa non lo sono affatto. Infatti gli USA sono gli USA a volerlo a tutti i costi e l'Europa fa resistenza. Togliere i filtri doganali che organizzano e regolano i paesi che hanno un'economia impostata sulla qualità e l'esportazione significa essere invasi da una miriade di prodotti spazzatura, perché le regole, le leggi, le modalità che valgono negli USA devono valere anche da noi. Siamo costretti ad accettare sfruttarle e l'approccio alla cittadinanza è completamente diverso. In Europa un prodotto per essere messo in commercio deve essere testato e ritenuto almeno sulla carta non nocivo, mentre negli USA la nocività viene testata sul campo, prima si mette in commercio un prodotto, poi si vede se produce danni. Ma i cosiddetti accordi non riguardano solo le merci propriamente dette, bensì ogni aspetto della nostra quotidianità. Sono considerate merci anche la scuola, la sanità e la salute, il lavoro, lo stato sociale. Ogni più piccolo anfratto della vita è considerato possibile oggetto di profitto. Gli USA stanno mettendo in campo ogni tipo di pressione e ricatto per raggiungere il loro scopo, dalle denunce come quelle per esempio sulla Volkswagen, alle campagne moralistiche come quelle sulla FIFA, alle blandizie come quelle rivolte da Obama ad Angela Merkel nell'incontro di Hannover, bastone e carota. Come la NATO è strumento di aggressione militare, il TTIP è strumento di aggressione economica. Gli accordi in trattativa prevedono che uno Stato non possa limitare la libertà commerciale di una struttura economica esterna, perché scatterebbe immediatamente da parte della multinazionale in questione la denuncia per danno economico e di immagine. Sta già succedendo ed è pratica corrente in svariate parti del mondo che hanno firmato accordi con gli USA. Quindi uno Stato non può più fare legge a tutela dei suoi cittadini e cittadine in nessun campo, né a vantaggio della sua economia e dei suoi interessi. Le leggi che fa sono sottoposte al vaglio delle multinazionali. Lo Stato quindi non è più in grado di legiferare, viene praticamente meno, scompare. I governi diventano governatorati a tutela degli interessi delle multinazionali. Ma non è casuale. Il neoliberismo è un prodotto statunitense e si è irradiato in Europa tramite l'Inghilterra ed è stato naturalizzato nei diversi stati dai partiti socialdemocratici riformisti, qui da noi dal PD. Non a caso gli USA si pongono in questo scenario come stato del capitale, come governo delle multinazionali. E infatti, se passerà il TTIP, avremo delle multinazionali il governo diretto. Stiamo attraversando un passaggio epocale, si va affermando un'iperborghesia transnazionale che si pone come nuova aristocrazia, dove i singoli stati sono solo vassalli e i cittadini solamente dei sudditi. Questo è il senso del TTIP, fa parte di un cambiamento strutturale del governo del mondo. E quindi contro il TTIP, tutte e tutti a Piazza della Repubblica alle ore 15, sabato 7 maggio 2016. Vi aspettiamo per rivedere, rileggere, risentire le nostre trasmissioni, per rileggere i documenti e le comunicazioni. Potete andare su coordinamenta.noblogs.org, per scriverci su coordinamenta@autistiche.org, e vi ricordiamo sempre che questa radio non vive d'aria e ha bisogno del sostegno di tutte e di tutti. E quindi se andate su www.ondarossa.info trovate tutte le modalità per poterci e poterla aiutare. Un abbraccio grande a tutte e a tutti quelli che sono privati della loro libertà. Ciao.